Rock. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Per quest'anno niente ramoscelli da scambiare, così cambia la Domenica delle Palme a causa del coronavirus. Chiese vuote, messe in streaming e nessuno per strada a darsi gli auguri. Al massimo ci si saluta dai balconi, a distanza, brandendo rami d'ulivo in segno di pace e speranza in un momento difficile. Il Vaticano aveva chiesto di celebrare in forma semplice il primo rito che apre la Settimana Santa e quella del 2020, tra processioni cancellate, nessun fedele in chiesa, sarà di certo indimenticabile. Celebrazioni in forma semplice anche nelle parrocchie. Qui siamo davanti alla chiesa di San Giuseppe, quartiere Madonnella di Bari. Don Tino ha scelto di celebrare la messa sul sagrato davanti ad alcuni fedeli, tutti a distanza l'uno dall'altro. Il segno di questa domenica lo conosciamo benissimo tutti, è il ramo di ulivo. Il ramo d'ulivo, tenuto stretto tra le dita, seppure avvolte in un guanto di lattice. Questa era la cronaca presa da TRM News, della Domenica delle Palme, con le chiese vuote perché c'è l'obbligo del distanziamento fisico tra le persone e logicamente l'Ecclesia, la liturgia di Pasqua, che vede proprio come suo punto focale la comunità che si riunisce e celebra un momento importante nell'anno appunto liturgico, non può essere svolta secondo i canoni, secondo le regole. Nel nostro paese questo ha causato una profonda frattura ideologica, stranamente ideologica, ben lontana da chi in realtà a pieno titolo amministra la scansione delle regole in campo liturgico, nel caso della Chiesa Apostolica Cattolica Romana, ma diciamo la politica si è un po' impossessata in maniera strumentale di questo fatto. Date il diritto ai cittadini di andare in chiesa, tonava Salvini, perché questo sembrava un messaggio politico importante che poteva accattivarsi comunque consensi. Molti preti hanno detto: noi siamo preti, siamo ligi al nostro Stato, celebriamo la messa ma la celebriamo senza persone davanti perché questo è pericoloso. Altri hanno detto, mi ricordo Sgarbi, sono aperte le tabaccherie, la gente fuma, fa male ai polmoni, è più facile che gli venga il coronavirus, sono chiuse le chiese perché non si può impedire alle persone di celebrare la messa. È un po' ridicolo che questo impossessarsi strumentale di un momento molto individuale, molto personale, degno di grande rispetto, come quello della necessità, del desiderio, del bisogno di sentirsi in contatto con il corpo mistico di tutta la Chiesa in un momento che, per quello che ho vago ricordo, è il più importante dell'anno liturgico. Si diceva bisogna confessarsi almeno una volta e comunicarsi una volta dell'anno a Pasqua, solo che a Pasqua quest'anno la gente, per cui questo è un importante precetto, è un bisogno anche fisico, quello di entrare in comunione con il centro più potente della propria spiritualità. Come si risolve? Non in maniera naturalmente demagogica o politica, però mi interessa capire come tra le tante eccezioni, tra le tante singolarità a cui stiamo assistendo in questa virata improvvisa della nostra civilizzazione, come ci si comporta sotto Pasqua, uno dei primi anni in cui è molto difficile rendersi conto che qualcosa di estremamente violento, estremamente difficile da gestire sta accadendo. Quindi questa mattina pregherei di chiamare gli ascoltatori all'800240024. Quelli che hanno questo bisogno, sentono questo bisogno di comunque continuare a manifestare il proprio contatto con la pratica religiosa, che per loro, soprattutto in un momento così difficile, sarà molto importante, e quelli che comunque guardano da fuori ma hanno una rispettosa osservanza di quello che è un diritto che magari non è detto tutti sentano. Ringrazio, intanto lo faccio prima, sennò dopo purtroppo nella fretta e nella difficoltà di gestire tutto, stando totalmente solo in questo momento. Guardate, è un'esperienza anche nuova per un conduttore, condurre un programma radiofonico al buio. in cui non si ha davanti il conforto che per oltre 35 anni aveva rappresentato la radicalizzazione, ciò significa fare radio, cioè un vetro davanti, delle persone che ti mettono in onda, una regia, la sensazione di umani. Oggi si fa la radio per noi conduttori totalmente al buio, davanti abbiamo le mura di casa nostra, quanto di più estraneo ci sia alla consuetudine di mettersi in rapporto con gli altri. Quindi da Milano ringrazio Andrea Roccabella e Anita Panizza, da Roma ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, che come me sta a casa sua, e chiamo al telefono Carlo Marroni. Marroni, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Allora, Carlo Marroni è vaticanista del Sole 24 Ore e vorrei assieme a lui fare innanzitutto una cronaca di quello che accadrà in questi giorni. Faccio alcune domande banali. Tutti i giorni sta andando in onda una messa celebrata dal Papa Francesco nella cappella di casa Santa Marta. È già un evento, perché pare che da un punto di vista televisivo sia stato un grande risultato. Sì, il Papa celebrava questa messa tutte le mattine alle 7, una volta ho avuto anch'io, sono stato a Santa Marta con un certo numero di persone, potevano essere insomma invitati, dipendenti, una trentina, 40, questa naturalmente è stata sospesa, lui la fa da solo con una persona che l'assiste, forse due, e veniva trasmessa in diretta dalla TV Vaticana, accessibile a tutti, e veniva trasmessa poi dalla TV dei Vescovi. Ha avuto un enorme ascolto tutte le mattine, lui alle 7, non era così prima non veniva trasmessa da sempre, veniva data una sintesi di quello sì, che era una messa non ufficiosa, diciamo, una messa che faceva ufficiosa, diciamo, la faceva lui ufficiosa. Per i dipendenti, per le persone vicine, è diventata la messa per eccellenza a questo punto. La messa per eccellenza, hai detto benissimo, e veniva ascoltata attraverso questi due canali, la TV dei Vescovi, TV 2000 e il canale del Vaticano, che è accessibile online da tutti, ma era libera, e ora Rai 1 da circa 10 giorni a uno, nello spazio storico di una mattina, dalle 7 alle 7:40 circa, viene trasmessa questa messa senza commenti, e fa un 15% circa di share, che per chi sa queste cose è una cifra enorme, milioni di persone. Questo dimostra come alla fine c'è una ricerca forte di spiritualità in un momento di abbandono. C'è una curiosità, Gianluca, che i tuoi ascoltatori... Oddio, fatti fare qualche pensiero, perché onestamente capisco che è un momento particolare e chi ha una fede ha più bisogno di sentirsi a contatto con ciò che più rappresenta la sua fede. Ma se non si volesse fare due conti, attaccano la diretta con la cappella del Papa e si risparmiano di fare uno mattina con le ballerine, i conduttori, i cucinieri, i cuochi e via dicendo. Con grande risparmio hanno un grande risultato. Certo, certo, sicuramente il risultato c'è. No, poi una mattina prosegue dopo, fino un'altra ora è buona, però sono temi sempre legati, credo, al virus. Però diciamo sì, ma il momento di massimo ascolto è quando c'è la telecamera puntata sull'Eucaristia, si chiama l'adorazione, che è un minuto di silenzio, che è l'anti-televisione per eccellenza, il momento di immobilità, e quel momento che lo share salga a livelli più alti. Questo però adesso evidentemente... ti faccio una domanda un po' maliziosa. Tu che hai più strumenti per rispondere di me, mi darai una risposta. Io ricordo, perché mi sono occupato proprio in Rai degli aspetti digitali tanti anni fa, ebbi contatti con la CEI perché ero il primo che doveva mettere, diciamo, in onda online la messa nel sito della Rai. Ancora la Rai non aveva un sito, lo stavamo costruendo. Ricordo che la CEI fu ferra da un punto di vista, cioè la messa, essendo un sacrificio attuale, accade qualcosa, deve andare rigorosamente solo in diretta. Appena finita la diretta non la mettete più online. Ma io su Replay in questo momento sto rivedendo la replica registrata della messa del Papa. Non è un po' un controsenso? Allora, forse quella che di cui ti occupasti te era la messa della domenica, questa essendo un orario, io credo, sì, ora non so, vado in, sì, ma non so, un fatto proprio liturgico sostanziale, il sacrificio della messa vale, certo, soltanto nel momento in cui avviene, perché avviene qualcosa, su una fede naturalmente. Rivederlo registrato è un controsenso. Forse la RAI dovrebbe rendersi conto che su Replay non dovrebbe essere rimessa la messa replicata, ecco. Poi non sono io che devo dire. Forse sarà così, vi ho detto che i tempi sono anche straordinari, quindi evidentemente in questo senso, però so per certo che non viene commentata, cosa che per esempio le messe a volte vengono commentate, non quelle diciamo della domenica, ma quando il Papa fa le messe in giro per il mondo, eccetera. Questa è senza commento, va pura e nuda, cioè come la dice il Papa. Questa è, sì, le viene messa registrata, non so perché, ma credo per dare accesso a tutti, visto anche l'orario un po' presto. Sì, forse poi non se ne sono accorti, perché onestamente da un punto di vista liturgico e poi, scusami, hai detto la teologico... Qui non c'entra la Chiesa, qui è proprio la Santa Sede, quindi evidentemente sono soggetti diversi che dicono cose diverse. Però la messa è la messa, se il sacrificio vale solo nel momento in cui si attua e poi non può essere trasmesso, dovrebbero farci un po' attenzione, mi rendo conto che in questo momento ci sono tanti problemi. Sentiamo gli ascoltatori, vediamo un po' di sentire il polso del pubblico, sembra qualcosa che riguardi soltanto chi ha fede, ma l'aspetto anche, diciamo, di ricordo di un momento importante dell'anno che tutti abbiamo, la Pasqua era la Via Crucis. La Pasqua erano alcune occasioni anche vissute in maniera superficiale probabilmente da molti, che però tenevano le persone vicine insieme, dava il senso del trascorrere della nostra storia. Angelo da Firenze, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Senta, io salve, volevo intervenire perché premetto che sono cattolico praticante, sono assolutamente d'accordo con l'apertura delle chiese. Ecco, mi sento di criticare chi a sua volta. Ma sono aperte le chiese? Le chiese non sono chiuse, sono aperte le chiese. Sì, sono aperte. Non possono entrarci dentro le persone per motivi di sicurezza. Ma non è cosa da poco che non si dica la messa. Guardi, volevo dire. Ma la messa si dice, guardi, no, la correggo, la messa si sta dicendo. I sacerdoti dicono la messa, che non possono far entrare la gente dentro perché se la gente deve stare distanziata. Lo so bene, però se non accede alla messa capisce bene che per me non ha valore quella messa, cioè non è che non ha valore, nel senso non ne posso prendere i benefici, perché c'è un beneficio a prendere la messa. Però lo so, questo è il punto, la dice in quasi totale solitudine la messa, io sinceramente ma il non tema che d'accordo. Ci poniamo noi, con grande rispetto e attenzione, quali sono i due concetti che devono prevalere? La sicurezza generale delle vite degli esseri umani o questo anelito comunque di partecipare alla messa? Io, per quello che ricordo, nei miei vaghi ricordi, ci sono stati sacerdoti che hanno celebrato messa in condizioni terribili, nei campi di concentramento, nella prigionia, nei momenti più disperati, ricordo cose del genere. Consideriamo che è un momento disperato e difficile in cui il Padre Eterno terrà conto anche del fatto che le persone hanno come precipuo loro scopo di salvaguardare la propria vita, che mi sembra una cosa fondamentale. D'accordo con lei, si danno anche le assoluzioni o confessioni di gruppo in circostanze eccezionali, se uno sta per essere giustiziato o se c'è un aereo che precipita, c'è qualcuno che può dare la confessione o la soluzione del peccato, ci sono circostanze eccezionali. Secondo me bisognerebbe dire più messe, dirne di più e stare distanziati. Perché la messa è una cosa importante per chi... Quindi lei fa la proposta che fa, cioè fare messe con la distanza di sicurezza, invece che farne una ogni 5-6 ore, farne tutto sulle spalle dei poveri sacerdoti, però questa è una proposta che funziona. Potrebbe funzionare, non è un lavoro come gli altri. Sentiamo Roberto da Roma. Roberto da Roma, poi sentiamo Carlo Maroni. Roberto da Roma. Pronti, Roberto da Roma. Ma io sono perfettamente d'accordo, una messa fatta all'aperto, con distanza di sicurezza e mascherine, credo che non ponga problemi di pericolosità, anche perché ci è stato detto e ripetuto che le mascherine servono soprattutto a proteggere gli altri. Molto bene, quindi teniamo conto, io non sono neanche praticante, però sono aperto alle necessità psicologiche delle persone che in questi riti trovano modo di tranquillizzarsi e di sperare. C'è un problema, che le norme applicative delle limitazioni mi pare che non prevedano questa possibilità, cioè lo stato di necessità lo vedo un po' difficile da giustificare per quello che ho intuito, questo richiederebbe un grande impiego di forza pubblica per gestire l'afflusso. Ai supermercati c'è una fila lunghissima che può durare, essere anche lunga centinaia di metri, sì, esatto. Tutti distanziati a 2 metri, si entra 2 per volta, si fa la spesa, perché nutrirsi è una necessità primaria. La stessa cosa dovrebbe avvenire nei luoghi di culto, dovrebbero entrare 2-3 persone alla volta, un supermercato è grande, più o meno è grande quanto una chiesa media, capito? Possono entrare 3 persone per volta nel supermercato sotto casa mia, con grande attenzione fanno la spesa e scappano via. Una messa dura più o meno 45 minuti, mi sembra qualcosa del genere, quindi bisognerebbe fare dei luoghi dove ogni 45 minuti si ripete un rito per 3-4 persone, la vedo... un po' complicata da un punto di vista di gestione poi della gente che arriva lì, che si muove, che torna a casa. Secondo me, con grande rispetto lo dico, mi sembra piuttosto complicato. Tu cosa ne dici, Carlo Marroni? Allora, innanzitutto diciamo, è chiaro che questo è un tema su cui ciascuno dice la sua anche in maniera, diciamo, con la propria sensibilità. La Chiesa non è... Ci sono delle posizioni ufficiali su questo, per capire un po' anche come la pensa, della poi Chiesa, deve della decidere. Chiesa intendi? Allora, sì, la Chiesa, certo. Sì, la Chiesa non, cioè, si attiene al territorio italiano, la Chiesa sottostà alle leggi, non è una zona franca e non c'entra neanche il concordato. Voglio dire, questo è quello che accade dentro la Santa Sede. In teoria possono fare quello che vogliono, ma si sono adeguati totalmente alle leggi italiane, anzi in maniera anche ancora più stringente. La Chiesa cattolica si è adeguata alle norme italiane e c'è stato un attimo di incertezza su se le chiese dovessero essere tecnicamente aperte o chiuse. Inizialmente, forse qualcuno se lo ricorderà, il vicario di Roma aveva detto che le chiese si chiudono, poi il Papa il giorno dopo, che come sappiamo è il Vescovo di Roma, ma gestisce la diocesi attraverso il proprio vicario, che si chiama De Donatis, ha fatto riaprire le chiese, quindi le chiese formalmente sono aperte, i portoni sono aperti, uno può entrare dentro, sedersi, pregare, uscire, non ci sono le messe, i preti dicono le messe o da soli dentro la chiesa o in cappelline laterali, a seconda, però le loro messe, diciamo che il prete deve celebrare almeno una volta al giorno la messa. Però diciamo anche i funerali, abbiamo visto la tragedia delle morti e dei funerali che non vengono celebrati in maniera tradizionale, cioè la benedizione davanti anche la notizia che ho letto, ci si può sposare benissimo, prete, testimoni e sposi, fine, sarebbe una grande, questo un grande avviene. Risparmio per tutti, se uno si vuole sposare veramente può farlo. Io credo che, visto che soprattutto per gli sposi, diciamo quelli giovani, il matrimonio è un evento, credo che verranno tutti rimandati, credo, però questo non lo so, ci saranno dei micro matrimoni veloci. Comunque il Papa, cioè, si è pronunciato, guarda, vedo adesso un ADN Cronos di questa mattina, delle 9.55, in questi giorni di quarantena crocifisso e Vangelo sarà per noi come una grande liturgia domestica, perché non si può andare in chiesa in questi giorni. Esattamente. Lo dice proprio il Papa, l'ha detto il Papa nell'ultima udienza generale, quindi il Papa lo dice chiaramente, crocifisso e Vangelo a casa. Dio è ovunque, lo spirito soffia ovunque, quindi in questo momento è un momento molto particolare, immaginiamo che siamo in stato di estrema necessità. Secondo me la fede può superare anche in questo momento il problema che ci si debba sentire per forza insieme nella comunità dei cristiani. Sentiamo Cristian, provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Christian. Sì. Il problema principale, secondo me, da cristiano è quello, non è tanto il dover, cioè il non poter andare a messa, perché tanto tramite la radio, tramite la TV, questa mancanza, insomma, non, tra virgolette, non si avverte. Si avverte la mancanza dell'Eucaristia, quello è il problema principale. E in questi casi purtroppo non può essere, cioè non si può ricevere, perché è una statistica troppo particolare, ci sarebbero troppi problemi, però... Ecco, questo, Cristian, mi rendo conto che finalmente una persona che vive in maniera concreta, reale, la fede, dice che il vero problema non è tanto dover stare insieme agli altri a messa, è che non si può fare la comunione. La comunione non è un atto formale, per quello che io possa ricordare, non è una cosa che si fa, come dire, un rito così, una ricorrenza. La comunione, per chi ci crede, è un momento fondamentale, è un momento di contatto reale, sostanziale, e questo probabilmente a una persona che ha questo necessario, questo tipo di nutrimento, è una carenza vera, Cristian, è questo il problema. Sì, sì, questo è il problema, cioè il problema principale, che però poi non è un problema, perché purtroppo il problema adesso è un altro, quindi uno lo può vivere in maniera diversa, anzi, paradossalmente, dove veniamo da un periodo dove la Chiesa vacilla, speriamo che questo periodo forte, con questa paura di questa malattia, diciamo, faccia far quadrato e riscoprire ancora di più, senza falsa retorica, il valore della festa più grande per noi cristiani, che è la Pasqua. Sì, poi, insomma, giustamente... mi rendo conto, questo è anche un momento, diciamo, una grande scrematura. Chi usava la pratica religiosa come un elemento di aumento del proprio prestigio sociale, ci facciamo per far sentire buono queste invocazioni ai Sacri Cuori Immacolati di Maria, che poi mi domando cosa voglia dire in un discorso politico, cosa c'entri, le ostentazioni dei rosari, gli eterni riposi fatti in coro con una subretta, capito? Tutte queste cose alla fine passeranno. Rimarrà per chi la fede è qualcosa che fa parte della propria vita, come è giusto che sia. Carlo Marroni, ma se le chiese rimangono aperte, cosa si può fare all'interno delle chiese? E se si è posto qualcuno il problema proprio dell'Eucaristia, che è il momento fondamentale, quello che veramente manca, qualcosa legato proprio al punto più pericoloso della trasmissione del virus, che è il passaggio attraverso la bocca? Sono posto, ma la chiesa è uno entra, prega, insomma, ciascuno se la vive come la fede è un atto individuale che a volte ha delle celebrazioni collettive, però la fede la religione cattolica è proprio individuale, poi diciamo, le cerimonie collettive sono importanti, ma non hanno diciamo questa fastosità, diciamo così, che le rende diciamo indispensabili. Sì, è vero, la comunione è sospesa, c'è qualche prete per la verità che si è un po' ribellato, ci sono stati dei casi. Fermo un attimo, Mario, devo dare con urgenza la borsa, ma era sfuggito. Resta lì un secondo, riprendiamo appena passata la borsa. Come si fa a pregare a casa? Ce lo staremo domandando tutti in questi giorni, no? Siamo nella Settimana Santa, che è la più importante dell'anno, che è la fonte, il culmine della vita cristiana, e non possiamo andare in chiesa per partecipare alle celebrazioni. È un bel casino, eh? Però in casa non è come essere in chiesa per davvero. Poi la messa in TV non mi lascia niente. Allora, Gesù nel Vangelo ci dice: tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Quindi non è indispensabile andare in chiesa per pregare, si può fare tranquillamente anche a casa. Certo, non puoi metterti in salotto e far finta di celebrare la messa, però uno, puoi seguire le celebrazioni del Triduo in TV e sui social. Ce ne sono di ogni razza e di ogni specie, quelle del Papa, quelle del tuo Vescovo, quelle del Vescovo dell'altra diocesi, quelle del tuo parroco, quelle del prete che ti sta simpatico. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Due, la CEI e le diocesi e anche le parrocchie hanno messo a disposizione una marea di sussidi con i riti delle celebrazioni domestiche per la Settimana Santa, che ti spiegano passo a passo come vivere la preghiera in casa e in famiglia. Otto zero zero ventiquattro. Oggi stiamo parlando della differenza rispetto ad ogni anno passato, per chi vede nella Pasqua anche un aspetto interiore, liturgico, religioso, a seguito delle restrizioni da coronavirus. Quello che avete sentito è Don Alberto Ravagnani, un pretino molto smart, che dal suo canale YouTube dice quello che la saggezza suggerisce in questo momento, anche chi non necessariamente debba fare professione di fede. Dice: guardate, avete tutti gli strumenti a disposizione, se veramente avete un desiderio profondo, un anelito di sentirvi in contatto con il Padre Eterno, i mezzi ci sono, non vi fermate al fatto che non si possa stare tutti incolonnati dentro una chiesa, sono aspetti esteriori. La professione della fede è anche e soprattutto uno spinta interiore. Questo prete lo spiega molto bene. Sentiamo Amerina da Roma, qualche ascoltatore, e poi riprendiamo con i nostri ospiti. Amerina da Roma. Buongiorno. L'ascolto. Io volevo intervenire su anche. Io non sono studente, però ho profondissimo rispetto per chi invece ha quest'altro tipo di approccio con la vita e con la spiritualità. Quindi capisco anche le esigenze, il disagio di questi. No, Merida, non la sento, mi dispiace. Ho riprovato a chiamarla perché perdiamo tempo prezioso, non riesco a capire proprio cosa sta dicendo. È un problema di qualità, ma le linee sono sovraccariche in questo momento per tutti. Carlo da Pistoia. Carlo? Pronto? L'ascolto, sì. Dunque, io devo dire due cose. Una, per farle i complimenti per il suo vocabolario e per il suo elogio. Sì, passiamo alla seconda. Alla seconda le volevo dire che già con titolo Grezio Caro, Libro Sesto del De Rerum, sì, Natura, sì, si parlava chiaramente del rapporto tra la divinità e gli eventi testi iniziali. Solo che in quel caso, nel caso di Titolo Grezio Caro, la bontà del discorso è molto più sobrio e molto più stringato, e quindi rispecchia un po' l'essenzialità della chiusura delle chiese, perché la preghiera può essere innalzata al Signore. Io sono credente e sono praticante anche, entro certi limiti. Può essere innalzata al Signore la preghiera anche nell'intimo della propria coscienza, del proprio essere. E quindi sì, però c'è solo un piccolo problema. Lei ha ragione, Carlo, ci fa anche una bella lezione, l'ascolterei volentieri. Ma Lucrezio si è prodotto un secolo prima che nascesse Gesù Cristo, e la divinità era tutt'altra cosa. Uno si scannava un capretto, si accendeva un focherello, e lì in quel momento c'era la divinità, capito? Non necessariamente. Oggi è un po' diversa, si parla di sensibilità diverse. Bellissima la sua lettura e la sua citazione epicurea, però ci troviamo in un altro contesto. Riprendiamo con Carlo Marroni velocemente, poi vorrei sentire qualcosa anche da chi più di noi può darci gli strumenti proprio dal punto di vista dell'essenza della liturgia. Carlo Marroni, ci sono anche preti dissidenti però in questo momento, che dicono che loro la messa la fanno comunque, vengano i fedeli, qualcosa del genere. Ho visto preti che celebrano messe con fedeli dentro, come se fosse un atto di ribellione e di presa di posizione rispetto a una chiesa che ha dimenticato il senso della ritualità. Cioè, ho visto cose folli, come Socci che dice il Papa non era in ginocchio il giorno che ha parlato alla piazza vuota. Cioè, un collega, un povero cristiano, che dice il Papa non era in ginocchio. Sembra delle follie in questo momento. Ma cosa sta accadendo? Guarda, in tre secondi hai detto fenomeni importanti. C'è chi critica il Papa da destra, diciamo così, che sarebbe stato troppo arrendevole verso il potere politico e civile, dicendo si capisco, chiesa, però un giornalista dica il Papa non era in ginocchio, ma i limiti uno della propria persona deve conoscerli, dai, io non mi permetterei mai, sono fatti suoi, diciamo, fa lui. Questo attiene alle critiche un po' da un certo mondo, al di là di Socci, che dice che c'è stata troppa rendevolezza. Dall'altro ci sono dei sacerdoti qua e là, che c'è chi in periferia di Roma ha celebrato in campanile, dall'altro la gente si è radunata sotto a Cerveteri, una chiesa domenica delle Palme. Eh sì, così il prete si salva la vita, che non respira nessuno, e gli altri tutti sottammassati, una bella paraculata, scusa il termine. Sì, infatti, oppure ci sono quelli, aspetta, a Cerveteri sono i vigili, sono andati sull'altare e hanno interrotto la messa. Quindi ci sono stati dei preti dissidenti che sono sciagurati dal punto di vista dell'attenzione verso il contagio, siamo i primi a dirlo, questi magari con buone intenzioni, ma il sacerdote come la Chiesa è in uno Stato, e in uno Stato certe regole si rispettano, quindi questa è la mia opinione, ma è rispettato al 99.9%, cioè in Italia ci sono decine di migliaia di parrocchie e stiamo parlando di 6 casi forse in tutto, quindi stiamo parlando veramente di pochi. Senti, la Via Crucis, come avverrà la Via Crucis? Il Papa va da solo, non la fanno? Solo perché non ho informazioni in questo, ma è una mia lacuna. Te la dico, è molto semplice. Venerdì sera sul Sagrato di San Pietro, quello dove c'è stata la cerimonia l'altra sera, quella della preghiera, il Papa farà una Via Crucis sostanzialmente da solo alle 9 di sera e sarà trasmessa in diretta. È un set già collaudato, ha avuto anche mi sembra un'ottima soluzione. Il Papa si dimostra ancora una volta più razionalmente pronto ad affrontare un problema di difficile soluzione, più lui che la politica, che vorrebbe sovrapporsi anche a quello che è la volontà di quello che in fondo è l'unica persona che a pieno diritto può dire quello che bisogna fare. Grazie Carlo Marroni, e presento Lucetta Scaraffia, buongiorno. Lucetta Scaraffia, mi sente, mi ascolta? Sì, la sento, ho seguito storica tutto il dibattito. Storica e giornalista. Sì. Sento Pronto? Cadute, telefonate, ecco ci siamo, no, la ecco, sento. Ci siamo. Ecco, da lei, nei limiti delle difficoltà di collegamento, io sono a casa mia e quindi anche lei penso anch'io. A casa sua, e tutto il mondo si collega con casa po'. Nostra. Sì. Mi dà una mano a riflettere se ci sono stati precedenti rispetto a questa situazione. Oggi sembra paradossale, in un mondo totalmente laicizzato, che accada anche questo, che le liturgie devono avere una stretta e violenta cambiamento proprio per essere in regola con le leggi dello Stato. Lei ha memoria di qualcosa di simile che sia già accaduto? Ma guardi, quando sento parlare di messe clandestine, perché pare che esistano persino delle messe clandestine in cui un sacerdote con pochi fedeli magari in una casa dice messa, mi viene immediatamente in mente l'Olanda del 600, quando hanno vinto i protestanti, ma l'Olanda era piena di cattolici, e i protestanti, la guerra di religione, hanno vinto i protestanti, hanno proibito la celebrazione di messe cattoliche, e allora si dicevano le messe clandestinamente. Ancora adesso si visita una chiesa nel granaio, c'era un granaio che sembrava un granaio, in realtà era stato trasformato in chiesa dove dicevano messa clandestinamente. No, c'è un po' di differenza, Lucetta, non le sembra? Perché... allora è un atto quasi di eroica testimonianza, sì, e quasi invece... di martirio. Oggi adesso sembra un po' una bravata, ecco, una bravata di chi non è tanto responsabile rispetto ai rischi che corre. Ecco, questo, poi non c'era la televisione. Ora, il fatto che si possa seguire la messa per radio e per televisione, secondo me, non è una sciocchezza, non è poco, anche perché io la seguo. E quando uno la segue per televisione, da una parte perde la dimensione comunitaria, ovviamente, no? Non è intorno la comunità dei fedeli, però vede tutto molto da vicino, diciamo che si distrae di meno, è molto concentrato sul rito della messa, molto molto concentrato sul rito della messa, e magari anche i vicini, le persone che ci sono, o con una chiacchiera o con qualcosa, o guardiamo chi c'è e chi non c'è, distraggono la persona che va a messa. Quindi non è detto che sia tutto negativo quello che c'è in una messa per televisione. Anche la perché Lucetta Scarfia, la voglio interrompere, ma siccome adesso devo dare la linea, vorrei sentirla con tranquillità proprio fra un istante, e ho alcune domande da farle perché mi interessa molto l'uso strumentale che viene fatto di questa necessità, di questo diritto, di questo bisogno, di questa dimensione che molte persone hanno pieno diritto ad avere la serenità, la tranquillità e le giuste informazioni, e di sapere come possono comunque continuare ad avere questo contatto. Ci fermiamo solo un istante. Melog. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Della possibilità di assistere, seguire, continuare, avere continuità con la propria pratica di fede in un momento in cui ci sono delle disposizioni ben precise, non per capriccio, ma che rispondono a necessità proprio medica, clinica, di stare distanziati. Stavo parlando con Lucetta Scarfia, che è storica e giornalista, mi stava dando dei precedenti in cui ci sono state sì messe clandestine, ma in momenti storici in cui era proibito fare la messa, quindi erano degli atti di testimonianza paragonabili a quello che è il martirio, quello che è fare testimonianza nonostante tutto. Ne potremmo citare tantissimo, un ricordo colorito che però sembra in uno di quei film che negli anni 50 e 60 davano l'idea del contrasto fra le due anime nel nostro paese appena uscito dalla guerra, e per l'esattezza Il compagno Don Camillo, cioè Don Camillo va con Peppone in delegazione nell'Unione Sovietica a vedere il socialismo reale. Attualmente non dice che è un prete, si mette col colbacco, si traveste anche lui da compagno perché andava in missione segreta, però c'aveva un ammenicolo, un crocifisso smontabile che usciva fuori da una specie di scatoletta in cui c'era tutto per fare messa, diceva messa clandestinamente in Unione Sovietica. Giovannino Guareschi così immaginava il senso di testimonianza in un regime totalmente mangiapreti e laico. Oggi è un po' diversa, mi fa un po' sorridere le spiegazioni che fa Dinolfi su Twitter, che spiega a Fiorello che non poter andare a messa per un cristiano è come vedere la moglie attraverso YouTube o attraverso Skype. Dice: tu vedresti tua moglie attraverso Skype? Ecco, per noi cristiani andare a messa è come non vedere la moglie attraverso Skype. Lucetta Scarfia. Ma no, io penso che non è assolutamente la stessa cosa, si stanno comparando rapporti completamente diversi. perché certo fa piacere andare a messa, ma intanto, come dicevo, si può seguire in televisione e non è poco. Si può seguire e anche averne un giovamento spirituale. Poi il rapporto con Dio, diciamo che è ufficialmente riconosciuta come una messa effettiva a tutti gli effetti, certo, quando cominciò a trasmettere la messa per radio. Sì, certo. Tranne ovviamente che non si può fare la comunione, ma come ha detto il Papa tante volte, ci può essere una comunione di desiderio, cioè uno può desiderare una comunione spirituale e ce l'ha. Cioè, la tradizione cristiana è, diciamo, una tradizione soprattutto spirituale, oltre che materiale, e quindi questo dà al fedele mille possibilità di partecipazione, di tutto quello che vuole. Soprattutto la preghiera è qualcosa che ha a che fare con l'intimo dell'essere umano e con il silenzio, con l'ascolto e il colloquio con Dio, cosa di cui adesso potremmo averne tantissimo tempo, il silenzio e il colloquio con Dio. Certo, c'è una grande differenza fra chi vive in una piccola casa con tanta gente e quindi subisce invece, diciamo, un affollamento e poco silenzio e poca autonomia di riflessione, e chi invece è solo, che ha naturalmente altri problemi, però la solitudine gli danno la possibilità finalmente in questa pausa di silenzio di pregare sul serio per lunghi periodi e ascoltare dentro il suo cuore la voce di Dio. Questa è una possibilità molto importante. Ci sta dicendo Lucetta Scarafia che l'esperienza della fede, del contatto con la fonte primaria della nostra attenzione spirituale può avvenire comunque. Ripeto, ci sono state circostanze terribili in cui l'umanità per fare questo ha rischiato veramente la vita, la vita propria, non la vita della collettività, perché gli soffi in faccia una possibile infezione. Molto diversa la cosa. Sentiamo qualche ascoltatore e poi commentiamo insieme a Lucetta Scarafianna da Roma. Buongiorno. Io sono cattolica, però penso che se crediamo possiamo tranquillamente pregare in casa, perché il buon Dio ci vede. È una forma di esibizionismo, secondo me, voler andare a tutti i costi in chiesa. Poi un'altra cosa, ci sono nel mondo tante persone sofferenti, malate, anziane, che vorrebbero morire, e viene ribadito che la vita è sacra. Allora, questi imbecilli che vogliono andare in chiesa a tutti i costi rischiano la loro vita, quella dei propri cari e quella delle persone che vengono in contatto con loro. Quindi dovrebbero ragionare. Ma infatti, guardi, lo dico, sembra un sovrappiù, chi si è espresso in termini talebani sul diritto di andare, non sono persone che appartengono alla Chiesa, sono persone che appartengono al mondo della politica, dell'opinionismo. È stato un puro atto di captatio benevolenze, pensando che poi chi ha fede veramente sia talmente ingenuo di dire: vedi, quello sta alla parte mia, dice, devo andare in chiesa. Questa mattina la dimostrazione è con persone illuminate che fanno testimonianza costante della loro fede attraverso il loro lavoro, come Lucetta Scarafia, o persone che semplicemente sono ascoltatori, chiamano e parlano in nome del buonsenso. Difficilmente si prende in giro una persona che ha fede. Poi il bigotto, colui che ostenta, il codino, lo zelatore per necessità di prestigio sociale, viene subito a galla in questo momento. Mina da Genova. Sì, no, io sono d'accordo con tutto quanto detto, volevo solo aggiungere, non hanno parlato di confessione. La comunione, insomma, presuppone per lo più la confessione, soprattutto, insomma, quando passa tanto tempo. Non l'ho proprio sentita questa. Mina, guardi, io parlo per ricordi molto remoti, con la sincera verità, e me ne prendo tutte le responsabilità. Però mi è sempre stato detto, la confessione, se la contrizione, il pentimento è profondo, ci si può anche un attimo passare sopra. E poi penso che in fondo è la cosa meno difficile da ricostruire. Uno potrebbe al limite farla anche via telefonica. Lo chiedo a Lucetta Scarafia, che ne sa più di me. Rispetto alla confessione, espone il problema. Ma guardi, io potrei anche confessarmi con un prete al telefono, o no? Credo di sì, non lo so, credo di sì. Questo non posso sapere se, ma penso di sì. Però la cosa che ha detto la signora è molto importante, perché tutti parlano comunque di comunione, non di confessione, anche perché nella fede che si vive oggi la confessione è il sacramento più dimenticato, meno praticato. Mentre quasi tutti fanno la comunione ogni volta che vanno a messa, si vedono appunto tutte le persone che vanno, molto meno si vedono i confessionali pieni, le persone persone che si confessano, cioè è un, in questo momento storico, diciamo, la confessione vive un momento un po' di abbassamento di tensione. Anche perché, diciamolo chiaro, dirlo a un'altra persona qualcosa che ci sta sulla coscienza e la difficoltà di dirlo, la vergogna di dirlo, il peso di dirlo fa parte proprio del momento di espiazione. Io posso parlare con me stesso e assolvermi di tutte le colpe della mia vita. Una cosa è dirlo a un'altra persona, e per questo esiste. Il confessionale è stato costruito per quello. Il confessore si deve dire qualcosa che tu non ti saresti detto a te stesso, insomma, deve essere una voce diversa che ti fa riflettere. Quindi nessuno ha tanta voglia di ascoltare le voci diverse. E quindi è un momento in cui non è un caso che non si parli di confessione, ma solo di comunione, perché la gente comunque si confessava poco. Invece c'è una questione importante, che c'era confessione pasquale, cioè dopo il Concilio di Trento ai cattolici è resa obbligatoria confessarsi almeno una volta l'anno e soprattutto nel periodo pasquale. Quindi noi siamo nel periodo pasquale e è un po' difficile trovare modo di confessarsi, anche perché il telefono va bene, però non è che uno fa un elenco di peccati e l'altro gli dice vabbè, pentiti, ti assolvo. La confessione è un rapporto in cui contano. Mi sembra cose. Se non sbaglio, poi mi corregge, è stato San Carlo Borromeo che si è inventato il confessionale, che è una macchina, infatti, fantastica, rapporto viene proprio in quell'intimità, la grata, uno da una parte e l'altro dall'altra parte, stare inginocchiato, aveva un senso, era una e macchina l'anonimato, di... L'anonimato, che nessuno dei due vede l'altro, si ricordi quello che è fondamentale, l'anonimato che ti permette di essere libero di parlare da entrambe le parti, e questa è una grandezza della Chiesa. Allora, il fatto che non si possa fare la comunione pasquale, la confessione pasquale in questo momento, certo è un problema. Naturalmente si farà dopo, speriamo che prima che finisca il tempo di Pasqua, che finisce con la Pentecoste, 50 giorni dopo il Natale, speriamo che siano aperte le chiese confessionali, che si possa. Sentiamo un attimo Lucetta, tornare. Don Carmine da Napoli, c'è un prete che ci chiama, un sacerdote. Don Carmine, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Senti, lei come ha risolto tutti i problemi quotidiani di cui stiamo parlando con i suoi fedeli? Così sentiamo una testimonianza diretta. Io non sono, ho lasciato la parrocchia dal 1 settembre dell'anno scorso. L'hanno sprecata oppure è una sua scelta? Non ho capito. L'hanno sprecata, come mai? Oppure fa altre cose? No, mi sono ritirato perché sono ipovedente. Ah, per un suo problema. Quindi in questo momento cosa pensa che possa essere una soluzione? Visto proprio nell'opinione di un sacerdote. È un momento che i cristiani, ma anche i non cristiani direi, possano approfittare di questo grande megafono che c'è nella Chiesa, dove la religione entra in tutte le case, a questo punto vedere la religione più come un fatto culturale che come un fatto fideistico. Don Carmine, qua la sigla ci interrompe. Non so quanto saranno d'accordo i suoi superiori, dice che la religione è un fatto culturale e non un fatto fideistico. Non so se tutti saranno d'accordo, ma abbiamo dato voce a tutti, anche a Don Carmine. Ringrazio Lucetta Scaraffia, ringrazio quanti ci hanno telefonato. A domani.